in primo piano. Buongiorno da Giulia Crivelli e buona Pasqua. Eccoci con la nostra rassegna dei giornali in questa giornata appunto di festa, oltre che essere domenica è anche Pasqua, e proprio perché è Pasqua vi ricordo che domani i giornali non saranno in edicola, quindi noi oggi avremo una rassegna stampa particolarmente lunga e voi oggi e anche domani avrete tempo magari di leggere con calma le tante cose che segnaliamo e anche quelle che non segnaliamo. Cominciamo dal Corriere della Sera. Oggi, ieri ricorderete, i titoli erano veramente tutti uguali perché era stato finalmente annunciato come dato per definitivo il bonus di 80 euro per chi guadagna meno di 26.000 euro lordi all'anno. Oggi invece i titoli sono un po' più diversi da giornale a giornale. Appunto il Corriere della Sera per esempio ha un titolo alla centro pagina, bonus permanente o inutile, che richiama un'intervista che il Corriere della Sera ha fatto al ministro dell'economia Padoan, e questo infatti è un suo virgolettato. Senza i tagli di spesa, dice il ministro, c'è un rischio di nuove imposte, quindi ammette che queste famose coperture alla fine vanno trovate soprattutto con i tagli di spesa, e crede anche Padoan che se non ci sarà crescita la tregua sui mercati, quindi anche per esempio il famoso spread, durerà poco. L'intervista di Enrico Marro la troviamo poi alle pagine 2 e 3 con tutti gli approfondimenti poi che seguono, e magari più tardi ne leggiamo un pezzo. Poi ci sono tante altre notizie sulla prima pagina del giornale. C'è una, tra l'altro uno stralcio del libro di Papa Francesco che verrà poi allegato al Corriere della Sera a partire da giovedì 24 aprile, che viene richiamato in prima pagina. Abbiate il coraggio di chiedere, l'invito a pregare il ricordo dei riti della Pasqua con la nonna. E poi vi segnalo un approfondimento sulle dichiarazioni di Berlusconi. Naturalmente c'è su tutti i giornali, qui c'è il riassunto di quello che Berlusconi ha detto ieri, con una particolare enfasi sul passaggio sui magistrati e quello che lui ha definito una sentenza mostruosa, quella che lo ha affidato ai servizi sociali dopo la condanna per frode fiscale. E da qui anche, probabilmente anche per questo, l'editoriale di Angelo Panebianco, una proposta per la giustizia. La giustizia è naturalmente una questione aperta, la riforma della giustizia, e al di là delle dichiarazioni di Berlusconi contro i magistrati, sicuramente è una delle questioni che il governo Renzi dovrà affrontare quando avrà finito di occuparsi di quelle che considerava le cose più urgenti, cioè appunto il bonus per chi guadagna meno di 26.000 euro. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche una storia che trovate anche su altri giornali, ma qui ha un particolare risalto. L'articolo di Chiara Maffioletti, e la storia è quella di una studentessa che ha raccolto 30.000 firme su internet contro il programma di Belen. Il programma di Belen su Italia 1, la rete considerata la rete dei giovani di Mediaset. C'è questo programma, forse qualcuno l'avrà visto, io personalmente no, che si chiama Come mi vorrei, ed è un programma in cui Belen Rodriguez dà dei consigli di bellezza. Poi leggeremo un po' questa storia che continua a pagina 23 del Corriere della Sera. Ma vediamo subito la prima pagina del Sole 24 Ore, perché queste misure, questi tagli naturalmente ci riguardano tutti. Il titolo del Sole 24 Ore è Famiglie e imprese, i prelievi nascosti. Si è parlato tantissimo delle coperture per questo bonus, ma bisogna anche analizzare bene, e il Sole 24 Ore lo fa, come poi sono state trovate e quanto veramente magari viene dato da una parte e tolto da un'altra. E allora c'è uno schema già in prima pagina, che poi trovate con tutti i dettagli a pagina 5, l'impatto del decreto per quanto riguarda le imprese, le banche e le famiglie. Il decreto naturalmente è il DEF. C'è un'analisi di Dino Pesole, un'incognita da 14 miliardi, e anche un'analisi di Salvatore Padula, il credito in busta paga che spinge verso la nuova IRPEF, perché come appunto dicevamo, tante misure al momento, ma queste coperture, soprattutto che cosa succederà in futuro, è un po' tutto da vedere, dipende, come del resto dice anche Padoan sul Corriere della Sera, anche da come crescerà eventualmente l'economia. Cresce l'economia, cresce il gettito fiscale, è tutto connesso insomma, e qui si cerca di analizzare i vari aspetti. Vi segnalo anche due analisi fatte da due economisti stranieri che continuano poi a pagina 19. La prima è di Barry Eichengreen, i tassi troppo bassi sono il vero male dell'economia, e l'altra è di Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, l'aumento dell'inflazione è una paranoia per pochi. Abbiamo parlato ieri, forse lo ricorderete, nella rassegna stampa europea dell'approfondimento che c'era sulla Zeit su inflazione e deflazione. Anche questi sono temi che anche il governatore governatore della BCE Mario Draghi continua a toccare, cioè i mali dell'inflazione, i mali eventuali della deflazione e appunto i pareri diversi degli economisti, perché sapete che è difficile trovare gli economisti concordi su un unico tema. Vi segnalo dal Sole 24 Ore della domenica, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che sapete approfondisce in una pagina intera, oggi è la pagina 16, un titolo quotato per cercare appunto di spiegare al risparmiatore per l'appunto perché investire o non investire in quel titolo. Questa volta la società scelta è Engineering, l'Italia non basta, la nuova sfida è crescere all'estero. Poi, come ogni domenica, anche l'intervento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, che naturalmente oggi parla di Pasqua, se l'utopia caccia il male della storia. E parte tutto da una citazione di un filosofo, Jürgen Habermas, e la citazione è questa: se le oasi dell'utopia si inaridiscono, cresce il deserto della banalità e dello sconcerto. Queste parole di Habermas appaiono più che mai vere a chi consideri le vicende del Novecento, il secolo delle due guerre mondiali, della Shoah e dei vari genocidi, e quelle degli inizi del terzo millennio, apertosi con la tragedia delle Torri Gemelle e il conflitto che ne è seguito. Se la linfa della speranza e dell'amore non si è spenta fra gli uomini, è anche perché ci sono state oasi dell'utopia che hanno accompagnato i nostri giorni. Fra queste emergono le figure dei due papi che saranno proclamati santi domenica 27 aprile, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Sapete che appunto settimana prossima Roma si prepara a questa canonizzazione che poi si terrà appunto domenica 27. La prima pagina della Repubblica: Renzi, ora aiuti alle famiglie, ne abbiamo parlato ieri, appunto il primo passo era quello degli 80 euro in busta paga, poi ci sono tante altre misure che il Premier vorrebbe introdurre. Qui, mentre il Corriere intervista al Ministro dell'Economia Padoan, la Repubblica ha due pagine di intervista, anche in questo caso magari più tardi, adesso ve ne leggo soltanto una parte, ma magari più tardi avremo tempo di leggerne altri stralci. Giù le tasse a chi fa figli e lotta alla burocrazia. E poi un'altra dichiarazione importante: via subito il segreto sulle stragi. Torneremo al voto nel 2018, quindi Renzi crede che il suo governo e questa legislatura resisteranno per tutta la loro vita naturale, e il Cavaliere lo sa. E su questo appunto vi leggo la risposta, che è una delle ultime, l'intervista è fatta da Claudio Tito. Claudio Tito chiede: ha cominciato tagliando gli stipendi ai magistrati, sapete, un annuncio fatto ieri, perché ci sono anche alcuni magistrati che secondo Renzi guadagnano troppo, e Renzi risponde: stimo e rispetto la stragrande maggioranza dei magistrati, sono dei servitori dello Stato spesso straordinari, ma continuo a non capire perché in una fase di discussione di una legge alcuni di loro debbano intervenire con un tono superficiale e minaccioso. Se vale il principio sacrosanto per cui le sentenze si rispettano e non si commentano, con quale logica loro intervengono sulla formazione delle leggi? Non è indispensabile che un giudice o un PM guadagni più di 240.000 euro l'anno, non è un disastro sociale. Se l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, una delle principali associazioni appunto che raggruppano i magistrati, una sorta di sindacato dei magistrati, ci attacca per questo, sono preoccupato per loro. Resta incredibile che chi guadagna 20 volte più dello stipendio medio degli italiani si lamenti, è un attacco preventivo e ingiustificato. Mi hanno detto: guai ad attaccare i magistrati, infatti non li attacco, ma difendo il mio governo e la dignità dei dipendenti pubblici. Cosa dovrebbe dire un professore che guadagna 1.300 euro al mese? E poi, per fare tutto questo serve tempo, gli ricorda Claudio Tito, e infatti questa legislatura durerà fino al 2018, l'elemento che appunto la Repubblica ha usato poi per fare il titolo in prima pagina. Ci scommetto, dice Renzi. L'ultima domanda: Berlusconi mica tanto. Sapete che Berlusconi ha dichiarato più volte che non scommette appunto sulla durata di questa legislatura fino alla sua scadenza naturale, e Renzi risponde: forse non in pubblico, ma secondo me lo sa anche lui. In ogni caso nel nostro paese sta tornando la speranza. Adesso, se riusciamo a sbloccare l'incantesimo, accadrà una cosa straordinaria. In Europa torna l'Italia autorevole e combattiva. A quel punto, le assicuro, ci divertiremo. Ricordiamo appunto che manca poco più di un mese alle elezioni europee, che tutti considerano, che saranno il 25 di maggio, che tutti considerano un test, come sempre accade, anche per la politica italiana, per le sfide italiane, anche se poi appunto si tratta di formare un Parlamento europeo, non un Parlamento italiano. Vediamo, abbiamo tempo ancora un attimo prima della pausa per il meteo, per il titolo della Stampa. Anche in questo caso il titolo è su Renzi, sulle ultime dichiarazioni. La Stampa però non ha una mega intervista come il Corriere e la Repubblica. Abbiamo il titolo è: agganciare la ripresa, un virgolettato di Renzi, di più per ora non si poteva fare, i risultati li vedremo in autunno, ma vi segnalo dalla prima pagina della Stampa un'analisi che magari leggeremo subito dopo la pausa di Enzo Bettiza sull'altra grande questione internazionale aperta, che è quella dell'Ucraina, l'Europa non lasci sola l'Ucraina, e Enzo Bettiza ci spiega quanto è pericoloso lo stallo delle trattative. In primo piano. Ancora buongiorno, ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei principali quotidiani. Sulla Stampa c'erano le dichiarazioni di Renzi, anche se poi l'approfondimento lo trovate in realtà su Repubblica, che ha un'intervista di due pagine al Premier. Ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalavo l'intervento di Enzo Bettiza sull'Ucraina. Vi leggo la prima parte. Dicono e illuminano ben poco le ultime informazioni. Bastano però a farci capire che l'incontro a quattro tra giovedì e venerdì a Ginevra è di fatto andato a monte. La crisi di Kiev, uso le virgolette per sottolinearne l'oscurità, è stata discussa ma non chiarita, né tantomeno risolta dai rappresentanti di Stati Uniti, Unione Europea, Russia e Ucraina. Sarebbe forse il caso di aggiungere chissà quale Ucraina. Dall'incontro non traspare altro, almeno per ora, che l'accenno a una possibile soluzione di compromesso, non si sa bene tra chi e con quale motivazione credibile. La sostanza delle cose sarebbe rimasta come era prima del compromesso, sempre soltanto ventilato e niente di più. La crisi, pur carica di esplosivo, per ora dà la sensazione di marcire pericolosamente su un binario morto. E vedremo poi dopo la Pasqua, perché per Pasqua è stata proclamata e per ora tiene una specie di tregua, vedremo appunto come si muoveranno i protagonisti principali, cioè l'Ucraina, il nuovo premier dell'Ucraina e soprattutto il presidente russo Putin, ma anche questi spettatori non sempre o comunque criticati per non essere stati abbastanza tempestivi, cioè l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ma dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche la fotonotizia, perché c'è quest'anno una coincidenza delle date per la Pasqua tra i cristiani cattolici e i cristiani ortodossi, e quindi il titolo della fotonotizia: Cristiani uniti nella Pasqua in Terra Santa. Maurizio Molinari, come vedremo poi dalle pagine interne della Stampa, è andato appunto in Terra Santa e ci racconta questa atmosfera. In Italia, accenna poi la Stampa, inizia il lungo ponte di primavera. La prima pagina del Messaggero, c'è un focus sui tagli, perché oltre ai bonus in busta paga di 80 euro, alle misure per le famiglie, eventualmente anche per gli indigenti e gli incapienti, naturalmente, come abbiamo detto, vengono finanziate soprattutto con i tagli. E allora più tagli per i manager di Stato, sforbiciata bis sui compensi dei dirigenti, il tetto ora può scendere fino a 120.000 euro, e poi un accenno, ma l'avete sentito anche nei notiziari di Radio 24, alla rivolta delle banche su quel salasso, quello che viene definito un salasso da 2 miliardi e che il presidente dell'ABI Patuelli ha definito addirittura illegittimo, e il Premier ha replicato: siete come Grillo. Vi segnalo, come ogni domenica sul Messaggero, l'intervento di Romano Prodi, riflessioni pasquali, democrazia e crescita più difficili senza equità. La prima notizia, la fotonotizia però è dedicata alla Roma, perché la Roma ieri ha vinto e quindi è una vittoria che viene definita da Champions, perché ora la Roma appunto ha un posto al secondo posto assicurato e quindi un posto in Champions assicurato. Vediamo la prima pagina del Giornale. Ricorderete, ieri il Giornale aveva dato notizia di questa lettera di alcuni senatori del nuovo centrodestra che criticavano duramente Alfano. Ora il Giornale, proprio stamattina tra l'altro riascoltavo in replica prima di venire qui la puntata di Mix 24 dove Giovanni Minoli intervistava Angelino Alfano, che appunto diceva come a volte siano duri gli attacchi verso di lui personali, verso il nuovo centrodestra, dei giornali di casa Berlusconi, non tanto di Berlusconi. Questa di oggi forse conferma appunto quello che diceva Alfano, perché il titolo del Giornale di oggi è, sono due parole, Alfano bugiardo, nuovo centrodestra in rivolta. Il nuovo centrodestra appunto ha smentito la lettera dei senatori contro il leader, lettera di cui ha dato notizia ieri il Giornale, ma il documento esiste e lo pubblichiamo, infatti lo trovate all'interno del Giornale. Giovanardi avrebbe detto siamo nel caos, e poi c'è un accenno nel titolo, che è un titolo che occupa tutta la prima pagina del Giornale, alla stangata sulle rendite con le banche all'attacco di Renzi. Abbiamo visto appunto questa notizia anche sugli altri giornali. L'articolo principale di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, vi leggo le prime righe. Alfano dice di non aver ricevuto ricevuto alcuna lettera di dissenso da parte dei suoi senatori. Strano, visto che nessuno degli interessati ha smentito di averla scritta e noi ne abbiamo copia che oggi pubblichiamo. Come dire, caro Alfano, il postino suona sempre due volte e le bugie hanno le gambe corte. Da traditore a bugiardo, una carriera in ascesa. Mi chiedo quale sarà il prossimo passo dell'uomo senza quid, da ieri anche per i suoi. Leader non ci si inventa né ci si autonomina, si nasce, e lui non lo nacque, per dirlo alla Totò. E va bene, poi la fotonotizia invece è dedicata a un articolo che poi trovate all'interno a pagina 10, un'inchiesta sulla storia del Partito Comunista, sesso, soldi e intrighi, la storia segreta del Partito Comunista, con una foto di Palmiro Togliatti, uno dei segretari storici del Partito Comunista, definito anche il migliore. Vi segnalo, ma così per dovere di cronaca, un articolo di Paolo Isotta, che è un critico musicale, ma qui si veste anche dell'autorità di critico letterario, e dice: ridicolo e banale, García Márquez si può non leggere. Allora, sapete, Gabriel García Márquez, scomparso giovedì a 87 anni, l'autore di Cent'anni di solitudine e tantissimi altri libri. Ieri abbiamo citato tanti ricordi di scrittori e di lettori di questo grandissimo scrittore sudamericano, colombiano. Certo che García Márquez si può anche non leggere, è un diritto del lettore non leggere, da qui appunto a criticarlo così, non lo so, mi sembra una cosa molto gratuita, un diritto naturalmente di Paolo Isotta, però ecco, se ci fosse oggi, se io dovessi dare il premio alla carta costa, il premio che dà Alessandro Milan, lo darei a questo intervento di Paolo Isotta, che dice che García Márquez si può non leggere. Ripeto, ce l'ha spiegato anche Daniel Pennac nel suo decalogo dei diritti del lettore. Certo che i libri si possono non leggere, è un nostro diritto. García Márquez certo non ci avrebbe obbligato a leggere alcuno dei suoi libri. Ma vediamo la prima pagina di Libero. Questa è una bella inchiesta che si intitola Trovare lavoro a 50 anni. In 500.000 hanno perso il posto, cioè sapete anche il grandissimo problema degli esodati, cioè le persone che non hanno più un lavoro ma non hanno neanche la pensione per ora, e che sono, alcuni di loro sono proprio in quella fascia, cioè tra i 50 e i 60 anni, gente ancora giovane, quindi con molta esperienza. E quindi spiega Libero, cresce la richiesta d'esperienza, e alle pagine 2 e 3 di Libero trovate i settori che tirano, le opportunità per dirigenti impiegati e le possibilità per mettersi in proprio, quindi reinventarsi, non farsi scoraggiare dal fatto di aver perso il lavoro a un'età in cui sicuramente è più difficile trovare le energie per ricominciare che non quando si hanno 20, 30 o 40 anni. L'editoriale, l'intervento sulla prima pagina del direttore Maurizio Belpietro, attento Matteo, chi tocca i giudici rischia grosso. Avevamo letto la risposta appunto di Matteo Renzi su Repubblica. Matteo Renzi vuole abbassare alcuni super stipendi dei magistrati. I magistrati hanno fatto una specie di difesa preventiva dicendo: no, non, i nostri stipendi non si devono toccare perché garantiscono la nostra indipendenza. E qui appunto Maurizio Belpietro sembra dar ragione a Matteo Renzi quando dice: pericoloso toccare, cioè mi sono accorto che insomma la sensibilità dei magistrati su tante cose, compresi i loro stipendi, è molto alta. La prima pagina dell'Unità: Renzi, non esistono intoccabili, e questo è di nuovo un riferimento credo ai magistrati ma anche ad altre categorie che verranno, alle quali verrà per esempio tagliato lo stipendio o alle quali il Premier vorrebbe tagliare lo stipendio. Banche e magistrati contro i tagli del governo per finanziare il bonus fiscale per i redditi più bassi, ma il Premier rilancia: farò di tutto per garantire l'equità. Il prossimo obiettivo è la pubblica amministrazione, dove sapete il problema non sono tanto gli impiegati normali ma i dirigenti, che sono in proporzione, come abbiamo raccontato tante volte, come hanno raccontato tante volte i miei colleghi di Radio 24, sono in una proporzione molto maggiore che in altri paesi. Appunto, i dirigenti, che quindi guadagnano molto di più, sono molto di più che in percentuale rispetto ai dipendenti normali. Poi c'è una fotonotizia che è del Parlamento europeo, non so se, perché non lo dice, se la sede di Strasburgo o quella di Bruxelles, altra questione giustamente da affrontare prima o poi. Sapete che il Parlamento europeo ha due sedi che naturalmente costano tantissimo. Gli ultimi sondaggi riservati segnalano una rimonta dei popolari, ci sarebbe un duello tra PPE, il Partito Popolare, e PSE, il grande agglomerato della sinistra. Il PD sarebbe il primo partito nella sinistra, ma sull'alleanza Schulz ha più margini margini di manovra Schulz, che è l'attuale presidente del Parlamento europeo, ma che si candida anche, sapete, è della SPD, del partito di sinistra della Germania, e si candida anche, si è anche candidato a essere presidente della prossima Commissione europea, cioè un po' il premier dell'Unione europea. Dalla prima pagina dell'Unità vi segnalo la rubrica di Maria Novella Oppo, che si chiama Fronte del Video e che oggi è dedicata a Cosentino, perché sapete c'è questa storia incredibile dell'ex sottosegretario di Forza Italia Nicola Cosentino, attualmente in carcere, che aveva alle quali erano state date le chiavi per fare il suo jogging, non so se giornaliero, bisettimanale o settimanale, all'interno della reggia di Caserta. Scrive Maria Novella Oppo: certo, quella di usare la reggia di Caserta per le sue corsette solitarie non è stata sicuramente l'azione peggiore compiuta dall'ex sottosegretario Nicola Cosentino, che sapete, aggiungo io, sulla sua testa pesano delle accuse di gravissime di essere sostanzialmente colluso con la camorra. Eppure, nella cosiddetta civiltà mediatica, rende l'idea dell'abuso dello strapotere politico più di altre imprese illecite per cui i magistrati hanno ordinato la carcerazione. Poveraccio, chissà quanto gli mancano ora i giardini della Versailles borbonica, ma soprattutto la sensazione padronale di avere le chiavi in tasca per entrare in quel paradiso da re. E dire che a far emergere l'episodio sono stati gli avvocati dello stesso Cosentino, che volevano dimostrare come nella reggia il loro assistito non organizzasse convegni criminali, ma solo un innocente svago. Così si rovina un uomo per sempre. Anche se le accuse contro di lui dovessero cadere, Cosentino, nelle immagini di repertorio dei TG e della testa degli italiani, continuerà a fare jogging in mutande, autoescludendosi dalle liste a sua insaputa come Scajola. Non so se sono d'accordo con Maria Novella Oppo che così si rovina un uomo, perché noi italiani abbiamo la memoria molto corta, però sicuramente quell'immagine di Cosentino che fa jogging privato nella reggia di Caserta, perché il custode gli ha dato le chiavi così per fargli un favore, perché era un super potente del luogo, sicuramente non è bella. E la rubrica si intitola appunto Cosentino, il re è in mutande. La prima pagina del manifesto, che come sempre sapete, il manifesto trova questi titoli molto immaginifici, è una foto di Berlusconi, Silvio Bellico. E naturalmente il riferimento è alle dichiarazioni che abbiamo visto anche riportate in prima pagina sul Corriere della Sera, fatte ieri da Berlusconi, che è tornato in televisione a parlare e ha definito quella contro di lui una sentenza mostruosa. Forza Italia, però, ricorda il manifesto, crolla nei sondaggi, l'ex cavaliere si gioca tutto alle europee, il vero obiettivo del perseguitato, tra virgolette, Alfano. Se il nuovo centrodestra incassa i dividendi di Renzi, potrebbe raccogliere i pezzi della disfatta forzista nelle urne. In primo piano. Rieccoci, ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli. Eravamo sulla prima pagina del manifesto, che ha questa foto di Berlusconi e il titolo Silvio Bellico, perché il riferimento naturalmente è all'offensiva, potremmo dire mediatica, perché era molte settimane che Silvio Berlusconi non andava in televisione, in cui ieri appunto Silvio Berlusconi ha parlato di tante cose, anche della sentenza contro di lui che lo ha condannato a servire nei servizi sociali. E sapete che è stata scelta una comunità di anziani vicino a Milano, e questa sentenza Silvio Berlusconi l'ha definita una sentenza mostruosa. Il manifesto è anche uno dei pochi quotidiani, insieme abbiamo visto alla Stampa, che riporta l'attenzione sulla crisi ucraina. Kiev sospende l'offensiva contro i ribelli, dopo Pasqua si vedrà, quindi c'è un po' questa sospensione, questa tregua pasquale, però naturalmente la questione è lì e non è assolutamente risolta. E poi vi segnalo un articolo sull'Algeria. In Algeria, sapete, si è votato questa settimana, ha vinto Bouteflika, però ha vinto, ma la metà delle persone, almeno in Algeria, pare non abbiano votato, quindi ha vinto con l'81,53%, ma con un'astensione altissima, quindi un risultato elettorale che fa molto pensare. E l'articolo di Giuliana Sgrena: Bouteflika vince e non fa rabbia. È un po' lo stupore di molti osservatori occidentali, che appunto tutti noi abbiamo un po' assistito, e del resto come c'è sempre il dilemma, come si fa a intervenire nella politica di un paese sovrano. Comunque tutti noi abbiamo un po' assistito da questa parte del Mediterraneo a queste elezioni e abbiamo così accettato questo risultato, che sicuramente però è frutto appunto di un'elezione un po' di una consultazione un po' anomala. Ma vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. Qui Renzi è in tenuta da calcio, è vestito di viola, non è naturalmente la divisa della Fiorentina, però sappiamo che Renzi è un tifoso della Fiorentina. In questo caso è la maglia dell'ANCI, l'associazione dei sindaci, quando appunto Renzi giocava in questa squadra, quando era ancora sindaco di Firenze. E il titolo è Renzi gioco con Baggio, e poi un inchino della RAI per una diretta TV, scrive il Fatto Quotidiano, che sapete è uno forse dei giornali più critici verso Renzi. Dopo il gol sugli 80 euro, il premier scende in campo a Firenze per la partita del cuore con il suo candidato sindaco Nardella, che sapete era il suo vice e che adesso quasi certamente lo sostituirà come sindaco, perché nelle primarie del PD ha stravinto e comunque gode un po' dell'effetto Renzi, diciamo così. A 6 giorni dal voto per europee amministrative, uno spot niente male, rebus par condicio. Intanto scoppia la grana degli F-35, l'abbiamo visto ieri proprio sul Manifesto, c'è questa questione F-35 sì, F-35 no. Alla fine probabilmente soltanto uno di questi aerei costosissimi non verrà ordinato. Con la manovra, ricorda il Fatto Quotidiano, ne è stato tagliato uno solo, che però forse potrà tornare l'anno prossimo. Vi segnalo, ma lo vedremo poi più tardi, 2 interviste, anzi 3. Una è a Casaleggio, questo l'ideologo cofondatore del Movimento 5 Stelle, 2 pagine di intervista a cura di Gianni Parbacetto e Peter Gomez. Casaleggio, il virgolettato scelto dal Fatto per titolare l'intervista: chi non mantiene gli impegni deve essere cacciato. L'altra intervista, uno dei creatori di Blob, Marco Giusti: il grande Blob Italia, tutti mitomani a cena sulla stessa terrazza, il riferimento un po' anche alla grande bellezza, quel film, dove il film di Sorrentino che ha vinto l'Oscar come miglior film straniero, dove ci sono queste cene appunto in terrazza tra intellettuali o presunti tali. E poi una viene riproposta come ogni domenica dal Fatto, una delle grandi interviste di Enzo Biagi, e questa volta non poteva che essere forse una l'intervista che Enzo Biagi fece tanti anni fa a García Márquez, il virgolettato scelto per intitolarla «Combatto sempre con l'esercito della mia penna». Vediamo l'Avvenire, che ovviamente è un titolo sulla Pasqua. Pasqua al nuovo inizio, con la cronaca della veglia di Papa Francesco ieri, del Sabato Santo, e poi ci sono alcuni approfondimenti, e la fotonotizia è dedicata a quella tregua pasquale di cui abbiamo parlato in Ucraina. Le autorità ucraine hanno offerto una tregua pasquale ai separatisti filorussi dell'est, avvertendo però che le operazioni militari riprenderanno tra qualche giorno se i ribelli non avranno sgomberato gli edifici amministrativi occupati. Da Mosca il presidente Putin ha scelto toni concilianti, cercando di ricucire lo strappo con la NATO e sostenendo che una normalizzazione dei rapporti è possibile. E poi vi segnalo, perché come quasi sempre dico, l'Avvenire è forse il giornale più attento a non spegnere i riflettori sulle crisi che invece forse in tanti dimentichiamo o di cui parliamo solo quando c'è un fatto esagerato. E allora 3 focus sulla Siria, dove c'è una vera e propria odissea dei cristiani, perché i cristiani sono spesso perseguitati, e l'Avvenire segue questa vicenda giorno per giorno, possiamo dire. E poi all'interno anche la questione dei migranti in Kenya, l'incubo dei deportati verso la Somalia, e poi anche la povertà in Venezuela. Il Venezuela è un paese in profonda crisi, colletta tra i fedeli per comprare farina per chi non ha nemmeno appunto il pane o altri generi di primissima necessità. Vi segnalo anche la prima pagina del Secolo XIX, il quotidiano di Genova, un po' perché si focalizza su un'altra serie di tagli che arriveranno su questa grande spending review che è stata annunciata e iniziata da Renzi, che sono quelli all'università. Spuntano i tagli all'università, e naturalmente anche qui vedremo quali saranno, perché l'Italia è sicuramente il paese degli sprechi, però dobbiamo anche avere paura magari dei tagli un po' indifferenziati. E allora spiega il Secolo XIX, 30 milioni in meno nel 2014, poi c'è subito l'allarme del rettore dell'Università di Genova: avevano promesso di darci più fondi e invece appunto arriveranno i tagli. Ma vi segnalo anche, perché è una questione molto diciamo ligure, però poi riguarda anche tanti, tanti di noi, sicuramente tanti lombardi, ma non solo, che vanno in vacanza in Liguria: parte da Lazio la guerra alle cabine. Infatti ci sarebbero centinaia di firme di turisti residenti per abbattere il muro di legno sul lungomare, che impedisce di vedere dal lungomare il mare. Di queste cabine, le spiagge sono quasi tutte insomma a pagamento in Liguria. Naturalmente non riguarda solo Lazio, come chi frequenta la Liguria sa. Vediamo apriamo la prima pagina della Padania. C'è una foto di una foto, in realtà è un fotomontaggio di un nido con delle uova colorate. Renzi ci ha rotto le uova nel paniere. Anche a Pasqua i consumi alimentari sono frenati dalla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, non più del 10% può permettersi un viaggio, ma breve e al risparmio. E all'interno trovate appunto l'approfondimento che si intitola Pasqua, lo trovate a pagina 4 della Padania. Pasqua in tavola senza colombe e uova di cioccolato, con i dati del Codacons sul calo dei consumi: meno 9% gli acquisti di uova di cioccolato rispetto al 2013, meno 12% quelli di colombe, meno 3,5% la spesa media per il pranzo di Pasqua. Però ci saranno, lo ricorda la Padania, 11 milioni di turisti in movimento fra italiani e stranieri, non soltanto per Pasqua, naturalmente il ponte del 25 aprile, venerdì prossimo, e poi quello del 1 maggio. Prima della pausa per il GR, poi oggi, come vi dicevo, una rassegna stampa un po' allungata, mi fa solo piacere, posso raccontarvi meglio i giornali, che quindi ci risentiremo poi verso le 8:30. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Oggi non si gioca, è Pasqua, però ieri c'è stata la 34esima giornata del campionato. Abbiamo visto sul Messaggero la gioia per la vittoria della Roma. Il titolo della Gazzetta invece: la Juve Pog va. Naturalmente un gioco di parole, perché il gol che ha regalato la vittoria alla Juventus ieri è di Paul Pogba, che è naturalmente fotografato sulla prima pagina della Gazzetta. Quindi la Juve resta a più 8 sulla seconda squadra, che è la Roma. Mancano 4 giornate, la Juventus non è ancora campionessa matematicamente, ma la festa è prenotata. La Roma batte la Fiorentina, secondo posto e Champions sicuri, ricorda la Gazzetta dello Sport. Alle pagine 2 e 3 c'è una lunga cronaca di questa partita della Juventus. Batte a fatica il Bologna, perché come chi l'ha seguita tutta, o magari anche soltanto sentendo il risultato, è stata una partita insomma il cui esito non era poi così certo. Senza Tevez, che mancava ieri, è più dura trovare la via del gol, poi provare la tecnica del francese, e resta questo obiettivo dei 100 punti. La Juve insomma campionessa in tutti i sensi, sta battendo ogni record. Ma vi dicevo, ora facciamo una pausa per il GR delle 8 e ci risentiamo alle 8:30 per tutti gli approfondimenti dalle pagine interne dei quotidiani di oggi. In primo piano. Ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli, bentrovati alla rassegna stampa dei quotidiani italiani. Abbiamo visto che le prime pagine sono quasi tutte dedicate alle questioni economiche, dopo l'annuncio fatto l'altro ieri di questo bonus di 80 euro per chi guadagna meno di 26.000 euro lordi. Ci sono state le dichiarazioni, le precisazioni di Renzi e di altri ministri del governo annunciando un po' le misure che verranno. Ma dalla prima pagina del Corriere della Sera vi avevo segnalato una storia un po' curiosa su questa trasmissione di Belen Come mi vorrei, che ha come protagonista Belen, perché c'è una ragazza di 29 anni, Camilla De Luca, che ha lanciato una petizione perché definisce questa trasmissione maschilista. Ora, io non l'ho vista, poi ognuno può farsi un'idea guardandola. Il problema è forse che Belen appunto dà consigli di bellezza per piacere ai ragazzi. Ecco, forse questa è la critica principale di Camilla De Luca: piacersi non dovrebbe essere così un obiettivo soltanto per piacere ai ragazzi. Allora, questa storia la trovate raccontata a pagina 23 del Corriere della Sera. Vi leggo la parte finale, che è dove Chiara Maffioletti ha chiesto un parere a Anna Oliverio Ferraris, psicoterapeuta e autrice di libri tra i quali Chi manipola la tua mente, e scrive la psicoterapeuta: i media hanno una evidente tendenza a semplificare la figura femminile riducendola al look. Si finisce per proporre modelli che non fanno bene perché non sono raggiungibili. Secondo la psicoterapeuta, da una parte programmi come questi semplificano la diversità, dall'altra alimentano l'insicurezza che spinge le ragazze a partecipare, facendo capire loro che davvero non andavano bene. Però c'è anche la replica di Luca Tiraboschi, che è il direttore di Italia 1, la rete su cui va in onda questo programma, che non è d'accordo, però raccoglie questa suggestione e dice: siamo solo alla prima edizione, non è detto che non si possa recepire il suggerimento per la prossima. Di chiusura, insomma, per ora non se ne parla. E a proposito dell'universo femminile, soprattutto delle violenze, sempre sul Corriere della Sera, pagina 17, trovate la storia di questa ragazza, Rosaria Aprea, che tra l'altro è anche è stata una bellissima ragazza, ha vinto anche per esempio questo concorso Miss Yacht 2010, è stata picchiata dall'ex compagno in passato Antonio Caliendo, che ora l'ha di nuovo picchiata anche se aveva promesso di non farlo più. E quindi il titolo: l'ex sotto processo per le botte che continua a picchiare la Miss, la mandò in carcere, in ospedale, finì in carcere, e ora lei, che all'inizio aveva detto l'ho perdonato, Donato, dice: denunciamo i violenti. E poi c'è anche la storia di un'altra ragazza, Jessica Rossi, di 23 anni, di Grosseto, che ricorderete, qualcuno lo ricorderà, un'altra vittima di botte da parte di un fidanzato violento. Jessica, paura, era fuori da scuola e mi fissava. Quindi un po' l'incubo che vivono queste donne che vengono picchiate da fidanzati, compagni, magari ex mariti, e poi naturalmente a volte queste violenze sfociano anche in quello che, con un neologismo un po' così non, forse non bellissimo, ma che però rende l'idea, sfociano poi nei femminicidi, di cui abbiamo parlato tante volte anche a Radio 24. Ma torniamo al Sole 24 Ore. Dicevamo, è il quotidiano che naturalmente dedica più spazio a tutte queste misure del DEF e del documento di economico che è stato presentato dal governo Renzi, e anche dai tagli di spesa che devono finanziare il famoso bonus da 80 euro. A pagina 3, per esempio, trovate l'analisi di Dino Pesole: nella legge di stabilità 2015 un'incognita da 14 miliardi, perché, scrive Dino Pesole, una certezza oggi c'è: il bonus, quello che verrà erogato in busta paga fino al 31 dicembre, che Renzi ha annunciato vorrebbe rendere, e anche il ministro dell'economia Padoan in un'intervista al Corriere della Sera vorrebbero rendere stabile, quindi non un una tantum per questi mesi da qui alla fine dell'anno. Il bonus fino al 31 dicembre, una scommessa in autunno, i tagli da attuare nel 2015. Non è un caso se a più riprese il commissario straordinario Carlo Cottarelli, sapete, il commissario per la spending review, abbia posto l'accento sulla fondamentale variabile politica. I tecnici propongono, poi spetta alla politica e dunque al Parlamento decidere. Potranno soccorrere altre decisive variabili: il calo sostenuto della spesa in conto interessi, propiziata dallo stabilizzarsi dello spread intorno ai 150 punti base, la possibile maggiore crescita indotta dallo sbocco dei crediti commerciali della PA, una più rapida inversione del ciclo internazionale. La partita si dovrà giocare in primis in Europa, e proprio in autunno, con l'Italia a presiedere l'Unione, si potrà provare a spuntare alcuni margini di flessibilità. Causa per investimenti al momento congelata, intese contrattuali, semmai vedranno la luce, più tempo per rientrare nel percorso di riduzione del debito, così come previsto dal Fiscal Compact. Dal Sole 24 Ore della domenica vi segnalo anche il supplemento Nova, e la copertina è dedicata ai computer e al rapporto che possono avere con i bambini molto piccoli. Nei computer l'alfabeto per i bimbi, ora sono davvero maturi i linguaggi informatici studiati per avvicinare i bambini al mondo della programmazione. Dalla Repubblica un'altra intervista, oltre a quella al premier Renzi che vi ho segnalato nella prima parte. Questa è a Raffaele Cantone, il commissario contro la corruzione nominato dal governo, che dice: la cattiva burocrazia è la madre di molti episodi di corruzione, l'Italia è redimibile, sento che stavolta la svolta è davvero possibile. Ricorda che è un magistrato, un PM di Napoli, Cantone, che tra Repubblica ricorda che per esempio ha fatto condannare i boss dei Casalesi, ed è anche un personaggio che chi ha letto i libri di Saviano, per esempio Gomorra, lo riconosce. Dice ancora Cantone: il nostro obiettivo non è quello di combattere il malaffare già avvenuto, ma di provare a prevenirlo. L'autority contro appunto le mafie ha attualmente poteri ispettivi, ci servono invece anche quelli sanzionatori. E vi segnalo, abbiamo parlato tanto di Marquez in questi giorni, Gabriel García Marquez, Homero Chai su Repubblica ci racconta che ci sarebbe un manoscritto inedito non ancora pubblicato, la famiglia starebbe decidendo se pubblicarlo, perché è un romanzo con due finali, quindi tante le possibilità affascinanti, magari pubblicarlo appunto con entrambi i finali, o magari qualcuno della famiglia che si prenderà la responsabilità di decidere quale finale pubblicare. E poi un'altra storia che ha la Repubblica, richiamata in prima pagina e intitolata, la trovate a pagina 17, la racconta Marco Ansaldo, uno dei vaticanisti di Repubblica: l'ira di Francesco per il megattico del cardinal Bertone. Sapete, Tarciso Bertone, ex segretario di Stato, sta per inaugurare questa sua nuova residenza romana di 700 metri quadri nel palazzo di fianco a quella che viene definita la modesta residenza del Papa, e pare, ma è un retroscena naturalmente raccontato da Marco Ansaldo, che appunto Papa Francesco non sia affatto contento di questa scelta di Bertone. Vi segnalo, prima della pausa per il traffico, dalla stampa una divertente carrellata sulle proposte più bizzarre che hanno fatto i parlamentari, sulle proposte di legge che hanno fatto, e cioè, non so, per esempio, chi propone l'insegnamento del mandolino in tutte le scuole, chi l'insegnamento del piemontese, e poi chi vuole introdurre i cimiteri per animali, e ancora, non so, chi vuole semafori più intelligenti dappertutto. Sono naturalmente proposte che vengono da tutto l'arco parlamentare dei partiti. In primo piano. Ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli, rieccoci per l'ultimissima parte della rassegna stampa di oggi, insolitamente lunga, ma ricordate, domani non ci saranno i giornali, quindi magari gli spunti che vi abbiamo dato potete usarli per oggi o domani, quando i quotidiani non saranno in edicola. Eravamo sulle pagine interne della stampa, c'è un bellissimo reportage di Ilaria Maria Sala da Hong Kong, perché tra i tanti anniversari che forse un po' ci dimentichiamo c'è quello di Tiananmen. Ci ricorda Ilaria Maria Sala che il 17 aprile del 1989 il regime diede la notizia al regime comunista, viene definito regime appunto, i vertici del governo cinese diedero la notizia della morte del riformista Hu Yaobang, su cui tanti avevano riposto molte speranze. Gli studenti si riversarono in piazza Tiananmen. 50 giorni dopo, cioè il 5 giugno del 1989, arrivarono i carri armati e iniziò quella terribile repressione che tutti ricordiamo di aver visto in televisione. Quindi due pagine un po' per ricordare la Cina dell'altro ieri, in fondo, del 1989. Poi vi segnalo, anche perché agli ascoltatori di Radio 24 il nome Federico Taddia è sicuramente molto noto, sempre dalla stampa, pagina 17, Federico Taddia ci racconta la storia di Jordana Grant, originaria del Montana negli Stati Uniti, che ora vive a Little Dio Maid, sul 65esimo parallelo, davanti all'Alaska, e dice: la mia scuola alla fine della terra ha una missione, ha fondato una scuola, dare un futuro al luogo più estremo. E qui naturalmente ci racconta la sua vita in questa natura incredibile. Dal Messaggero vi segnalo una bella intervista di Maria Latella a Raffaella Banchero, che è una manager italiana, amministratore delegato per l'Italia e per la Spagna di Tiffany, che è uno dei più grandi gioiellieri al mondo. Si sposta continuamente, ci racconta Maria Latella, da Milano a Madrid. È una storia, appunto, si parla tanto di quote rosa. Questa è una top manager che si è fatta strada sicuramente a suon di meritocrazia all'interno di questo colosso americano quotato. È originaria di Genova. Tra le tante cose che racconta, è a Roma e Barcellona al regalo di Natale o per un compleanno non si rinuncia, quindi le strategie di Tiffany un po' a Roma, dove tra l'altro è stato appena aperto un altro negozio, e poi racconta anche, insomma, la sua esperienza come manager, appunto, donna. Vi segnalavo nella prima parte della rassegna le interviste sul Fatto, c'è quella, ve le ricordo, quella non c'è tempo di leggerle, però sono entrambe sicuramente interessanti, quella a Gian Roberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, fatta da Gianni Barbacetto e Peter Gomez, e poi l'altra riproposta come ogni domenica, una delle grandi interviste fatte da Enzo Biagi durante la sua carriera. Questa è a Gabriel García Márquez, l'intervista è intitolata Io combatto e la penna è il mio esercito, e quindi in questa intervista il grande scrittore, che è morto giovedì scorso, racconta le opere, l'infanzia, il rapporto con il suo paese, la Colombia, l'esilio in Messico, la politica e tante altre cose. Ma veniamo un po' i supplementi culturali, non trascuriamoli assolutamente, quasi oggi che abbiamo più tempo. Cominciamo da quello del Sole 24 Ore, naturalmente il cosiddetto domenicale. Come sempre vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Sentirmi tuo. La citazione è: Signore, che sei il cielo e sei la terra, sei la vita e sei la morte, dammi anima per servirti e anima per amarti, fammi puro come l'acqua, alto come il cielo, proteggimi, difendimi, concedimi di sentirmi tuo. E poi scrive Ravasi: qualche lettore penserà che per la Pasqua mi sono concesso il diritto di convocare in questo spazio un mistico o almeno un grande credente in preghiera. Voglio invece stupire tutti. A scrivere questa invocazione è stato Pessoa, lo scrittore portoghese, che tra i tanti suoi volti aveva anche quello del fedele orante. È vero anche che gli scriveva questo assioma paradossale: cieca la scienza, folle la fede, non cercare e non credere, tutto è occulto. Sta di fatto però che il brivido della fede increspa in qualche momento la vita di tutti. Anni fa, mentre allestivo un'antologia sulla preghiera, mi accorsi che potevo senza difficoltà compilare un capitolo sotto il titolo La preghiera dell'ateo. Einstein ha confessato che la più alta emozione che si possa provare è quella mistica, e chi l'ha provata e non è caduto in devozione ignora uno dei lati più belli della vita. Quindi questa citazione pasquale. La copertina in realtà è dedicata a un libro di Jonathan Swift, Contro il libero pensiero, la recensione di Massimo Firpo, Conseguenze del libero pensiero, il titolo. Perché uno spirito anticonfermista come Swift decise di attaccare il free thinking di Collins? Il suo animo conservatore ne prevedeva alcuni pericoli, e qui ce lo spiega appunto Massimo Firpo. Poi la rubrica del direttore del Sole 24 Ore napoletano, che anche lo sapete, il direttore di Radio 24, qui ci racconta una stralcio di conversazione ascoltato in un ristorante di persone originarie della Svizzera che facevano un po' il confronto tra l'Italia e la Svizzera. Infatti il titolo è Gli occhi svizzeri sulla miniera d'oro che l'Italia spreca. Vi leggo le ultime righe. Non è vero che la Svizzera non ha difetti, la sua cultura militare non ti permette di fare tardi a cena e può privarti di piccole grandi gioie della vita. A noi resta la convinzione, però, scrive Napoletano, che un po' di quella cultura militare, tra virgolette, farebbe bene a tanti anche in Italia. Non diminuirebbero le nostre gioie della vita, ma si allenterebbe il cappio che rischia di soffocare lo spirito radicato di intrapresa e la voglia di costruirsi il proprio futuro in casa propria con le proprie mani. Sapete che in questa rubrica Napoletano si è occupato tantissimo nei mesi scorsi, appunto, di chi va via dall'Italia o di chi comunque vede tutti i difetti, soprattutto i giovani, del cercare di crearsi un futuro in Italia e restare qui e dare un futuro a questo paese. Dal supplemento, diciamo, del supplemento della domenica, che è domenica da collezione, c'è un testo di Georges Perec, un testo del 76 che ora viene riproposto in versione bibliofila, dove si spiega tutti i modi in cui leggiamo. E una qualche arte della lettura, scrive Perec, potrebbe consistere nel leggere di lato, nel portare sul testo uno squadro obliquo, quindi una riflessione su tutti i gesti anche fisici che compiamo quando leggiamo. Ma vediamo un po' anche gli altri supplementi, per esempio la lettura, quello del Corriere della Sera. Sapete che la copertina è sempre dedicata, è sempre fatta da un fotografo, da un artista, oggi a cura di Franco Vaccari, ed è proprio un bambino che legge. Il titolo è Mi è sempre piaciuto leggere. Dall'interno, dalle pagine interne, un articolo molto divertente intitolato Winnie the Pooh, dai filosofi salvaci tu, che è sostanzialmente la recensione di alcuni libri, tra cui soprattutto quello di Diego Marconi, Il mestiere di pensare, dove si racconta come in Italia non solo la filosofia sia diventata un'attività praticata non da pochi saggi, ma da migliaia di professionisti. E allora si chiede, riprendendo anche altri pareri internazionali, si chiede Vitiello, cioè è una moda, è una posa quella di pensare? Quindi l'autore invece, sì, Diego Marconi, si interroga su questi eccessi e confusioni del cosiddetto mestiere di pensare. E poi invece sull'editoria per ragazzi, visto che abbiamo detto che in copertina c'è un bambino che legge, una recensione di Cristina Taglietti su tante novità per bambini e soprattutto sul lavoro di Quentin Blake, che tra l'altro nel suo paese, in Gran Bretagna, gli hanno insignito questa onorificenza. È un illustratore e in una serie di volumi si celebra questo illustratore britannico che ha dato forma ai mondi fantastici di scrittori come Roald Dahl, ma in Italia anche di Bianca Pizzorno. La copertina invece della domenica di Repubblica è Cina contro Cina, anche qui un interessantissimo reportage di Giampaolo Visetti, da un villaggio molto ricco della Cina e da uno molto povero, per vedere, scrive Visetti, dove finisce il sogno e inizia l'incubo. E poi vi segnalo da Repubblica, anche con un'infografica bellissima, un articolo di Arturo Di Corinto, Com'è profondo il web, si vede una specie di iceberg sulla superficie, si vedono le cose più banali, cioè tutti i siti che noi visitiamo oggi. Ma poi sotto la rete, scrive Di Corinto, in cui navighiamo esiste un mondo sconosciuto 500 volte più grande e dentro c'è davvero tutto, per esempio naturalmente tutte le attività illegali che si possono svolgere su internet. Vi segnalo sempre dalla Repubblica un'intervista a Gianfranco Ravasi, il nostro collaboratore del Sole 24 Ore, fatta da Antonio Agnoli. I miei tormenti fanno parte della fede, so di camminare tra le sabbie mobili. Era l'ultima segnalazione, vi ricordo ancora che domani i giornali non saranno in edicola, ma come avete sentito, spero, c'è tanto da leggere oggi, potete farlo un po' oggi e un po' domani. Ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli.